l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. Chiedo scusa per la voce un po' costipata, ma è arrivata l'influenza anche via etere. Siamo qua con il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet, questa piattaforma europea che raccoglie alcune radio europee, e ci sono anche tanti elementi in comune. Si tenta di condividere un po' quelli che sono gli argomenti, quelli che sono gli spunti a carattere internazionale. www.euronet.eu è il network dove potete trovare anche tutti gli speciali in più lingue, quindi è un'ottima occasione davvero per conoscere altri punti di vista. Ogni settimana viene lanciato anche un tema. Questa settimana si parla di immigrazione e del rapporto tra l'Europa e l'immigrazione. Alcuni dicono che l'Europa dipenda dall'immigrazione, altri dicono invece che l'Unione sia sovraccarica di immigrati. Quello che è vero è che molti paesi membri dell'Unione puntano sugli immigrati per dare vitalità alle loro economie nazionali, e anche l'Italia, alcuni dati, gli stranieri regolari nel territorio sono ormai 4.300.000 persone, un'incidenza che pari al 7%, di poco superiore al 6,2% della media europea, lontani dalla Francia. Gli stranieri sono pari al 18%, o la Germania al 20%, però già un numero interessante. E soprattutto tre immigrati regolari su quattro lavorano, contribuiscono allo sviluppo economico del paese. Insomma, quindi gli immigrati come elemento ormai fondamentale, come motore anche dell'economia. Anche noi vogliamo portare la nostra suggestione, il nostro contributo a questa riflessione comune, e come sempre lo facciamo con una storia. Facciamo accompagnare dai titoli di coda di Couscous, film bellissimo del 2007, per raccontarvi la storia di un immigrato non solo lavoratore, ma un immigrato che è diventato immigrato imprenditore. Si chiama Saif Zigaia ed è l'ideatore, il fondatore del McDonald's. Ciao Saif! Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Benvenuto all'Altra Europa. Grazie. Allora Saif, ti piace questa etichetta di immigrato imprenditore? Oddio, perché no? Tra l'altro, leggevo, insomma, sono ormai più di 180.000 i titolari di impresa immigrati, quindi veramente una forza lavoro importante. E qual è la tua storia? Ce la puoi riassumere? Sì, la riassumiamo, insomma, in poche parole. Io vivo qui in Italia da 23 anni oramai, e ho iniziato, insomma, con la solita gavetta, come tutti. E fino al 96, quando mi sono messo in proprio producendo appunto gastronomia italiana, più precisamente romana, visto che vivo a Roma, e da lì l'azienda è cresciuta mano a mano, finché non abbiamo pensato di introdurre il kebab, diciamo, ecco, nel territorio nel territorio romano. Mm-hmm. Tu sei tunisino di origine, giusto? Di origine tunisina. Sì, sì. E sei arrivato in Italia già con una formazione legata alla gastronomia? No, diciamo, ho imparato tutto qui in Italia. Ho capito. Scusa, cosa hai imparato a fare? La carbonara o il kebab in Italia? È un po' tutto. Beh, la carbonara, insomma, l'ho imparata qui in Italia. Il kebab l'abbiamo portato come tradizione nostra anche. Mm-hmm. Ecco, e ovviamente, insomma, hai studiato anche marketing, perché non solo hai scelto di buttarti su una gastronomia che fosse anche particolare, ma hai scelto anche questo nome, questo McDonald's, che ovviamente ha una forte assonanza con McDonald's. Esatto. Beh, un po' per provocazioni, un po' per, diciamo, per ambizioni, ecco. E quindi, vista la storia della più famosa catena al mondo, uno pensa, perché no creare un'altra catena, però con un prodotto diverso. Mm-hmm. Cosa significa Doner? Doner è una parola turca che significa spiedo, quindi quando si dice doner kebab si intende dire spiedo di kebab, praticamente. Mm-hmm. Quindi tu hai aperto questo primo punto, questo primo McDonald's, dove fai di fatto una gastronomia allargata? Sì, esatto, abbiamo scelto di abbinare la gastronomia italiana a quella maghrebina, quella tradizionale maghrebina. Quindi nel primo punto che abbiamo aperto, speriamo uno dei, il primo di una catena, abbiamo abbinato praticamente cucina italiana e cucina etnica, quindi si può mangiare il piatto di pasta come si può mangiare il piatto di couscous, il piatto di mashuia, il piatto di il kebab appunto, eccetera. Mm-hmm. Insomma, ti auguriamo che veramente questa catena possa prendere piede. E, qualcuno ti ha aiutato, nel senso, per un immigrato è facile fare l'imprenditore, o hai trovato diffidenza, hai trovato ostacoli? Beh, ostacoli ci sono sempre, un po' per tutti, ecco, a tutti i livelli ovviamente, sia a livello finanziario, a livello burocratico, eccetera. A livello finanziario stiamo combattendo un pochetto con le banche per riuscire, insomma, ad accedere a qualche finanziamento. Per quanto riguarda, diciamo, la parte burocratica, ci appoggiamo al, perché gli strumenti ci sono, ovviamente ci sta la CNA World, sì. Precisamente nella persona di Claudio Capezzuoli, che ci ha aiutato moltissimo, insomma, a livello di consulenza, eccetera. E quindi siamo partiti studiando questo progetto a tutti i livelli, insomma, a livello, diciamo, burocratico, a livello legale anche, perché no, per riuscire a mettere su questo franchising a livello nazionale. Mm-hmm. E Saif, 23 anni che sei in Italia, però insomma leggevo una tua intervista di qualche mese fa dove eri alle prese col permesso di soggiorno, ce l'hai fatta a ottenerlo? Sì, alla fine sì, okay. Alla fine sì. Vabbè, insomma, dopo un anno e due mesi quasi. Mm-hmm. E ho caricato sul nostro profilo di Facebook, alle pagine dell'altro lato, una tua foto con dietro lo stemma del McDonald's, che di fatto ricorda davvero la M di McDonald's, poi dietro c'è un minareto. Ti è già arrivata una denuncia o non ancora? Ancora no. Ah, ok, va bene. Ancora no, speriamo che non arrivi. Insomma, no, beh, tu ti sei ispirato, ma è assolutamente una cosa diversa, non è una parodia, non è una citazione, insomma. Sì, ricorda un po', però è quel mondo lì, è quello di fast food. Beh, in questi casi è meglio non rischiare, almeno a sentire i legali ci hanno, diciamo, consigliato di allontanarci un pochetto da quello stemma e dal nome stesso, McDonald's. Infatti è in corso, diciamo, il cambio dell'intestazione della società. Si chiamerà, diciamo, appunto My Donor. Ok, grazie davvero Saif per averci portato la tua testimonianza, Saif Zagaia, e insomma in bocca al lupo per la tua attività. Grazie, buon sabato, ciao. Grazie. L'altra Europa. L'altra Europa at radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete contattarci, oppure attraverso il nostro profilo Facebook, dove questa settimana ho fatto un piccolo gioco, ho chiesto, ecco, se dico Europa, qual è la prima parola che vi viene in mente? E, insomma, è stato un brainstorming molto, molto particolare. Le parole che sono uscite, ne leggo alcune, sono burocrazia, sono speranza, sono libertà, sono pensieri senza frontiere, opportunità, utopia, tante cose ancora da scoprire. Europa, un pezzo di terra, questa è stata una delle risposte, e i contorni geografici della cartina e l'Erasmus che è veramente un elemento fondante di questa Europa unita, ritorna tantissime volte sia tra gli studenti, sia tra imprenditori che appunto nel loro nuovo viaggiare per l'Europa per lavoro ricordano che i primi viaggi sono stati fatti proprio durante l'università sfruttando questa importante opportunità. facebook.com/l'altra Europa, questo è il nostro profilo di Facebook. Continuiamo a raccontarvi storie legate all'Europa, storie anche di utopia. Questa settimana è uscito un articolo sul Corriere della Sera che parla di questa città che nascerà in Portogallo nel 2012, i primi insediamenti, si chiamerà Planet Valley, la città che usa il cervello, e avrà un sistema, una sorta di sistema nervoso centrale, un supercomputer che regolerà acqua, energia e ogni attività delle case. Sarà una una città nuova dove per la prima volta di fatto il costo di questo computer sarà maggiore del costo del mattone, perché sono case prefabbricate con tantissime nuove tecnologie che sono proprio indirizzate a portarle alla completa sostenibilità e all'impatto ambientale minimo. Un progetto importante, volevamo conoscerlo meglio e quindi da Planet Heat Valley abbiamo convocato il vicepresidente di Planet Life. Diamo il benvenuto a Bern Herbert. Ciao Bern, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno e buon dia da Porto. Allora, tra l'altro è un grande viaggio per l'Europa, perché parliamo di Portogallo, ma tu sei tedesco e lavori per questa multinazionale che è svizzera, giusto? Giusto, Federico. E tra l'altro leggevo un po' di curiosità, una multinazionale importante, e dovete avere un paio di lauree come minimo, vero, in curriculum, giusto per presentarvi alle selezioni, quello è il requisito minimo. questo è veramente giusto, e prima hai parlato di Erasmus e anche io ho questo nel mio curriculum, ho fatto anche io un'esperienza Erasmus in Francia. E invece l'italiano come l'hai imparato? Come studiante, per esempio, allora se posso parlare di me stesso, certo. Io ho studiato lingue, però al stesso tempo ho anche studiato economia politica e management, e poi ho fatto un MBA in sostenibilità. Sì. E tutti i miei colleghi hanno un profile abbastanza similare. Ci sono tante persone tecnici, ingegneri, architetti, ci sono ragazzi che hanno fatto biologia, ecologia, studi dell'ambiente e tutto questo. Ovviamente bisogna tutto quello se uno sta visionando una nuova città. Certo, ma perché è davvero una nuova città, nel senso dove ora non c'è nulla nascerà un insediamento? Mm-hmm, esattamente, Federico. E quello buono è come una valle, è pieno di un bosco di eucalipto, e questo non è un bosco tipo naturale. Allora è un posto bello dove possiamo mettere una città senza creare nessun problema con quello che c'è adesso. Vuol dire non c'è niente, non ci sono case, non c'è una naturalezza importante. Ho capito. Un buon posto per cominciare allora. Mm-hmm. E com'è che è stato scelto proprio il Portogallo come nazione dove fare questo esperimento? Prima, quello devo rispondere che questo è un tema europeo. Partendo dalla strategia di Lisboa, Europa sta molto avanzato con sì. Il tema dell'energia rinnovabile e la politica che sta dietro. E in Portogallo troviamo tanti progetti appoggiati dal governo che appoggiano queste idee. Ho capito. E anche noi siamo un tale progetto, e per quello siamo qua, siamo già riconosciuti dal governo come un progetto di importanza nazionale, però come siamo una ditta internazionale, non siamo collegati al governo, siamo privati, è una sì, ditta sì. privata. Che però insomma collaborate e avete trovato appoggio. Esatto, collaboriamo, però con questo basta, e siamo anche qua perché, per esempio, qua a Porto, sì. Siamo a 15 chilometri di Porto, e Porto è la città con l'università più grande del Portogallo. E quindi insomma trovate stimoli culturali importanti. Esatto, e questa è la ragione per cui siamo qua, perché nei intorni, a 100 chilometri di qua, ne abbiamo 5 università, e il nucleo della nostra città è di essere un centro di sviluppo e di ricerca. Quindi sarà una città dove si vivrà, nel senso che è comunque una normale città, però voi volete anche che abbia questa caratteristica. Bern, siamo in radio, quindi non è facile farlo, però ce la puoi far vedere questa città? Come sarà una volta costruita? Cosa accadrà? È una città dove, come ho detto, come si fa ricerca e sviluppo, si lavora in questa città, si studia molto in questa città. Ci sarà un sacco di opportunità di studiare, di imparare, ci saranno scuole, università, si lavora, si studia, è pieno di vita, è pieno di gioco, è pieno di gioia. Una città così normale, però, come dite voi, una città dove dovrebbe regnare 24 ore la sostenibilità. Mm-hmm. E in pratica in che modo avverrà? Ci sarà energia rinnovabile, ci sarà zero rifiuti per che sono mali, allora zero carbon. Sì. È pieno di queste idee e non bisogna dimenticare che questo è un sviluppo, parliamo sempre del sviluppo della sostenibilità. È un collaboratorio, se possiamo dirlo così, dove oggi mettiamo le tecnologie più avanzate in tutti questi temi, però se domani possiamo inventare con nostri innovatori delle tecnologie nuove, li possiamo implementare subito e provare se questo funziona o no e possiamo adattare. Ho capito. Vuol dire siamo continuamente in collaborazione e in innovazione. Certo. Bern, qual è il tuo compito di fatto? Di cosa ti occupi tu in particolare? In particolare questo che chiamiamo Planet Life, e questo la vita, allora è dentro di questo nucleo di sostenibilità. Si può capire che questo con le tecnologie può coprire tanto la ecologia, sì. Però poi cosa facciamo con l'economia e con la vita sociale? Questo è molto importante in qualsiasi città e si tratta di, per esempio, creare tanto lavoro per tutta la gente che abita di là. Tutti questi studenti hanno bisogno poi dopo di entrare in una vita lavorativa, e questa è l'idea di tenere un dipartimento che tiene il focus su tutti questi temi e assicurarsi che la sostenibilità anche entra nella vita sociale e economica. Complimenti davvero, perché insomma è un ottimo progetto e anche il tuo compito mi sembra assolutamente interessante e fondamentale. Berne, puoi darci un sito internet per avere qualche informazione o per curiosare? Se uno ha 6 o 7 lauree, abbiamo capito che può mandare il proprio curriculum, quindi magari. Avanti, quello che non abbiamo detto, quello che insegna un po' la parte nostra umana, sociale, sì. Penso che ne abbiamo come 25 nazionalità nell'equipo. Fantastico. Anche quello dice qualcosa. Eh sì. Hai il sito dell'azienda, si può dare? Sì, esattamente. È Living, sì. Planet. E il Planet si scrive con la I di Italia. Sì. E questo è importante di sapere. E forse posso mettere una piccola informazione sul vostro sito di Facebook. Grazie, sì, se vuoi caricare nella nostra pagina, nel profilo, così lì troviamo tutte le indicazioni, gli ascoltatori potranno poi accedere ai link successivi. Grazie davvero Berne, in bocca al lupo, complimenti a te e a tutto il team internazionale che sta lavorando a questo progetto. Pepi, un abbraccio da Portogallo. Grandioso, ciao, buon sabato, ciao Berne, ciao. Europost-it. Alla ricerca del traduttore perduto. Calo delle vocazioni tra gli interpreti italiani. Per far fronte alla necessità di trovare giovani che scelgano la carriera di interpreti e abbiano voglia di andare a lavorare nel Parlamento, alla Commissione e alla Corte di Giustizia europea, l'Unione ha realizzato un videoclip destinato proprio ai giovani italiani. L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Verso i 13-14 anni avevo deciso che volevo studiare le lingue e che il mio sogno era diventare l'interprete. Il video integrale, contenente le interviste di interpreti italiani che già lavorano nelle istituzioni europee, si trova su YouTube digitando il titolo Interpretare per l'Europa in italiano. Ancora l'altra Europa, e rimaniamo sempre in tema di città probabili, di città futuribili. Prima abbiamo parlato di questo progetto che sta nascendo in Portogallo, questa città carbon free, questa città che sarà regolata da uno supercomputer, questa città dove anche la viabilità avrà un'importanza fondamentale. E proprio di viabilità parliamo perché il 18 e il 19 ottobre qui a Milano si terrà Mobilità e Tech, che è il forum internazionale sull'innovazione tecnologica per lo sviluppo della mobilità e del trasporto, un forum europeo dove proprio i veicoli ecologici e una mobilità nuova saranno al centro delle conferenze e degli incontri. Ci saranno anche cose divertenti, ci sarà un tour a bordo di veicoli simboli ecologici che vedrà impegnati tutti i protagonisti politici, insomma, di Milano e non solo. Ci sarà anche il commissario europeo Tajani, che lo vedremo sì scorazzare per la via della città con questi mezzi a metano, mezzi elettrici, insomma, impatto ambientale zero. E abbiamo convocato quindi un esperto di micromobilità, parlerà anche lui all'interno di uno dei convegni, è un urbanista e docente al Politecnico di Milano. Diamo il benvenuto a Fabio Casiroli. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima dell'intervista mi sono preparato, sono andato a studiarti, ho scoperto che sei esperto di viabilità a Venezia, cioè sei uno di quelli che riesce ad andare in bicicletta a Venezia, no? È impossibile. No, direi che ti sei documentato non bene a Venezia, no. Ascolta, no, Fabio, ciao, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. E, tu porterai qui all'interno del forum a Milano un'esperienza che non è un'esperienza europea, però di una città molto particolare. Ci puoi spiegare in poche parole di cosa si tratta? Sì, in poche parole, questa città è una città completamente costruita ex novo. È una città da 70.000 abitanti che si sta realizzando, a dire il vero, negli Emirati Arabi Uniti, in particolare ad Abu Dhabi. Sì. È una città che si chiama Masdar, è progettata da Norman Foster e per la quale io con il mio team abbiamo studiato sistemi di mobilità totalmente carbon free. L'obiettivo di questa città è di non emettere neppure un grammo di CO2 e di riciclare il 99% dei rifiuti prodotti. Okay. Un'ambizione molto grande, naturalmente, che può essere possibile soltanto in un luogo particolare come gli Emirati. Mm-hmm. Difficile pensare di riprodurre in un contesto europeo caratterizzato da centri storici fatti in forma completamente diversa, nati naturalmente prima che nascesse l'auto e quindi nei quali l'auto in qualche modo si è sovrapposta violentemente alla struttura fisica che li ha caratterizzati fin dal loro nascere. Certo, tu sei esperto di micromobilità. Cosa si intende per micromobilità? Beh, micromobilità, in realtà questa esperienza di Masdar, seppure così particolare, ci ha permesso di fare delle riflessioni di più ampia portata. Sì. Oggi ciascuno di noi ha come proprio obiettivo quello di andare dalla propria origine alla propria destinazione, faccio un esempio molto semplice, dalla propria casa al proprio posto di lavoro, raggiungendo il più rapidamente possibile la propria destinazione e effettuando uno spostamento cosiddetto da porta a porta. Ebbene, in linea teorica questo è possibile utilizzando le nostre autovetture private. Dico in linea teorica perché non sempre è facile poi trovare parcheggio in prossimità della destinazione che vogliamo raggiungere. Se noi pensiamo di ragionare con movimenti più ecosostenibili, quindi con i trasporti pubblici, beh, non sempre questo spostamento da porta a porta risulta praticabile. Molto spesso, soprattutto con i sistemi di trasporto pubblico più importanti, le metropolitane, i tram veloci, ma anche i treni regionali, non riusciamo ad arrivare in prossimità della nostra destinazione. Manca fondamentalmente il tassello finale, che io chiamo, come molto spesso accade anche con i sistemi di telefonia, l'ultimo miglio. Ecco. Nasce allora questo concetto di micromobilità. La vediamo già applicata in alcune città, Parigi ad esempio è un paradigma da questo punto di vista, ha costruito il sistema Velib, 1500 stazioni nelle quali è possibile noleggiare una bicicletta. La cosa fondamentale è che il Velib costituisce una vera rete, vale a dire le stazioni sono collocate sostanzialmente a 150-200 metri massimo l'una dall'altra, quindi formano una maglia, un tessuto che garantisce praticamente l'accessibilità ad una vasta area. Ho capito. Anche Milano ci sta provando con il BikeMe, devo dire con grande successo. E sempre a livello europeo c'è un'altra città che secondo te è particolarmente rappresentativa? Sì, ce ne sono almeno un paio. Berlino secondo me è una città straordinaria. Berlino garantisce quasi 1000 chilometri di piste ciclabili o di itinerari ciclabili, non parliamo neppure di piste, di itinerari ciclabili a tutti coloro che desiderano spostarsi con quel modo di trasporto. Torno un attimo a Milano. Milano ha fatto il BikeMe, probabilmente dovrebbe anche costruire una seria rete di piste ciclabili, che è il tassello mancante. Berlino inoltre dispone di una maglia di trasporto pubblico formidabile, 500 chilometri di linee su ferro urbane, quindi tram, metropolitane e quant'altro. Il risultato è straordinario perché, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, dei city users e dei turisti modi di trasporto così efficienti, il risultato è di avere un numero di autoveicoli privati per 1000 abitanti molto contenuto. A Berlino parliamo di circa 320 vetture ogni 1000 abitanti, facciamo un confronto con Milano, ce ne sono circa 720 ogni 1000 abitanti. Con tutti ovviamente le conseguenze che ben conosciamo. Fabio, grazie davvero, tu parlerai all'interno di il tuo convegno, il martedì, Mobivision, lunedì pomeriggio, lunedì pomeriggio, e farò quattro piccoli flash. Il primo parla delle città povere che cambiano, il secondo le città ricche che cambiano, il terzo è sogni per ricchi e il quarto è sogni per tutti. Fantastico. www.mobilitech.it è il sito ufficiale per conoscere l'intero programma della manifestazione. Ciao, buon sabato e grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Europost-it. La corsa dei tori. Non sono animali, ma corridori i protagonisti di questa gara svedese che si tiene oggi alle 12 a Stoccolma. Questa corsa è chiamata dei tori perché gli atleti devono avere una forza simile a quella dei tori per affrontare questa competizione di 10 km, ma che si corre tutta con i piedi in una sorta di acquosa fanghiglia. E per le atlete più temerarie c'è anche la versione femminile della gara. L'altra Europa. D'Alta Europa, qui ci troviamo a parlare di cultura europea, di Unione Europea, di contaminazione, di punti di incontro tra i vari stati. Beh, il prossimo argomento invece in tutto ciò sembra quasi che si porti verso un'altra direzione, perché parliamo di quattro stati, e sono la Gran Bretagna, l'Islanda, l'Irlanda e la Danimarca, che si stanno sfidando a colpi di leggi. E in palio c'è uno scoglio fondamentale, pare, per l'economia di queste quattro nazioni. Una storia bella, una storia anche romantica, una storia che insomma ha anche qualcosa di incredibile. Storia scoperta e raccontata dal collega del quotidiano La Stampa, Fabio Pozzo. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, è uno scoglio, cioè non si può definire in altri modi questo pezzo di terra in mezzo all'oceano, giusto? Ma forse la Gran Bretagna non è d'accordo, nel senso che è fondamentale che invece la Rocal, che è questa pinna di granito che spunta come quella di un gigantesco squalo dal Nord Atlantico, sia invece un'isola, perché in questo modo può rivendicarne la proprietà e il possesso. Perché se è scoglio è di tutti, se è isola invece può essere nazionalizzata, diciamo. È corretto, almeno secondo la convenzione di Montego Bay, che regola il diritto marittimo internazionale. È veramente un pezzo di terra, insomma, di fatto anche le misure non sono chiare, perché le onde non hanno mai permesso, vero, di misurarne correttamente l'altezza. Sì. Ma parliamo di poche decine di metri quadrati. Parliamo di davvero di uno scoglio di alto tra i 20 e i 30 metri e con una superficie di circa un poco più di 600 metri quadrati. Ecco, e perché è così ambito questo scoglio? Beh, è ambito non tanto per il granito di cui è composto, anche in forme strane, tipo la basilite che si trova solo su questo scoglio, solo su Rocol, ma in realtà per quanto nascondono i suoi fondali, cioè il petrolio. Ah, ecco, quindi riuscendo a far entrare nei propri confini questo scoglio, c'è la possibilità anche di sfruttare i giacimenti lì presenti. Sì, questa è la vera realtà di questa sfida fra stati, forse l'ultimo rigurgito imperiale d'Europa. Non è tanto per una questione geografica, ma come dicevi tu, per una bella storia anche un po' romantica, ma in realtà è per una questione molto più concreta e reale, cioè esplorare i giacimenti di petrolio che si trovano sui suoi fondali. Leggevo sempre nel tuo articolo che nel 1997 c'è stato un tentativo di fondare una sorta di stato libero su questa isola, su questo scoglio. Questo è l'aspetto forse più romantico, perché Greenpeace, alcuni attivisti di Greenpeace hanno, diciamo, occupato lo scoglio, vi sono rimasti sulla sommità, che poi non è nemmeno così semplice, perché finora non ha retto nemmeno un faro in ausilio alla navigazione, strappato poi dalle onde. Sono stati 42 giorni sulla sommità di questo scoglio e hanno fondato lo stato di Waveland, ovvero terra delle onde, proprio per dire no allo sfruttamento del petrolio nei fondali. Ha avuto seguito questo stato? È stato riconosciuto da qualcuno? Non credo. No, assolutamente no, però ha avuto vita su internet, tant'è vero che ha raccolto diversi cittadini. In realtà poi non è durato molto, perché la società privata che aveva finanziato questa impresa è andata in bancarotta e quindi si è portata via anche lo stato di Waveland. Ho capito. Sempre nel tuo pezzo leggo che nel 2011 ci sarà un tentativo di entrare nel Guinness per il maggior numero di giorni passati su questo scoglio. Tu che idea ti sei fatta? Come finirà questa diatriba europea? Questo è difficile dirlo. Davvero si susseguono gli incontri fra le quattro capitali degli stati. La Gran Bretagna di fatto ha già annesso anche amministrativamente questo scoglio, Rockall, annettendolo all'isola di Harris della contea di Inverness scozzese. Quindi in realtà la Gran Bretagna forse è un passo avanti rispetto agli altri. Certo, l'idea romantica di Waveland sarebbe bella. Sì, insomma, dai, ci piace. Anche se fa ridere, insomma, uno scoglio che fa traballare così le intese, gli accordi, i rapporti di buon vicinato tra quattro stati. Paradossale, ma quando ci sono interessi economici, ahimè, tutto diventa reale, tutto è possibile, esatto. Fabio, grazie davvero per averci raccontato questa storia. E troverete il link sul nostro profilo Facebook. Europost-it. Il Diario d'Europa è in cerca della sua copertina. Il Diario d'Europa è una sorta di rivista europea che si rivolge ai giovanissimi e che parla di ambiente, consumo sostenibile e Unione Europea. È distribuita nei 27 paesi dell'Unione, ma è anche scaricabile da internet. A questa pubblicazione però manca una copertina ed è per questo che è nato un concorso aperto a tutti i creativi d'Europa per disegnare proprio questa copertina. La copertina non deve contenere dei testi, ma solo delle immagini e deve essere adatta ai ragazzi d'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Ciascun partecipante può anche presentare più proposte e l'autore di quella vincente riceverà 1000 euro. La scadenza per la presentazione è il 13 novembre 2010. Per ulteriori informazioni sul concorso, europadiary.eu. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Il 9 ottobre scorso, quindi pochi giorni fa, John Lennon avrebbe compiuto 70 anni e proprio il 9 ottobre si è aperta a Liverpool questa stagione dedicata a John Lennon. 2 mesi di eventi e concerti per la città e per capire quello che è il sapore di Liverpool in queste ore. E abbiamo invitato un esperto dei Beatles, credo faccia la guida proprio sui luoghi della formazione musicale in quel di Liverpool, e anche insegnante musicista. Diamole benvenuto a Jerry Murphy. Ciao Jerry. Ciao. Ciao, buon sabato e benvenuto all'Altra Europa. Grazie tanto. Ti piace? Ben trovato. Grazie. Ti piacciono i Beatles? Sì, naturalmente. Naturalmente, sì. Sono i nostri figli della nostra città qua, capito? Quindi insomma... E allora, per forza, eravamo tutti proprio... incandescente, si dice, dello successo dei Beatles. Ma tu sei stato a dei loro concerti? Adesso non so quanti anni tu abbia. No, infatti ero molto più giovane per essere presente, però conosciamo e conosco molto bene gente che stavano lì proprio nel famoso Cavern Club, li hanno conosciuto, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Ma allora, Jerry, ma Liverpool è la città dei Beatles tutti i giorni dell'anno, anche se in queste settimane insomma ci sono veramente tantissimi eventi, è diverso o per voi è normale? Infatti è piuttosto normale. Avvenimenti non sono in migliaia, capito? Ho capito, sì. Devo dire, abbiamo questo gran concerto che capiterà in dicembre. C'era una dedicazione a un monumento l'altra settimana, alla pace. Sì. E poi, tranne alcuni altri, c'è uno show, si chiama Lennon, che sta in teatro. Poi basta, infatti non è una pazzia qua. Secondo me, perché l'idea di celebrare i Beatles è diventato un po' stretto adesso. Ah, sì. La concentrazione turistica è sempre sull'idea dei i giovani Beatles o il filosofo Lennon, capito? Non c'è storia in mezzo, capito? Che può dare per me più senso della realtà, più senso della città da dove sono venuti, eccetera, eccetera. Per quello gli avvenimenti non sono in tanti, devo dire. Ho capito, ma tu, Jerry, fai la guida sui luoghi dei Beatles, ho capito, sì, bene? Sì, infatti ho creato una compagnia 20 anni fa adesso che fiorisce ancora. Sì. Si chiama Cavern City Tours. Sì. Io ho creato questa dopo di aver fatto un corso col comune qui, essere guida, andare in giro alla città. E allora ho visitato tutto nella città, ho conosciuto moltissima gente da quel periodo della nascita dei Beatles. E quindi proponi proprio un itinerario sulle loro orme, insomma, si vanno a seguire i Beatles. Si vanno a seguire i Beatles nei luoghi dove i Beatles sono stati, sì. Sono nati, sono cresciuti. Il famoso Strawberry Fields, i prati delle fragole che hai sì. Fatto sentire al pubblico adesso, il famoso che è vicino dove lavoro io lavoro in una scuola per ragazzi con difficoltà due sì. Giorni alla settimana con la musica, eppure è vicinissimo alla casa propria, casa patria di John Lennon, poi anche vicinissimo alla casa di Paul McCartney, l'originale, eccetera. E allora questi luoghi sono, come si dice, dappertutto il Liverpool, e c'è una storia molto interessante della crescita di questo genio che oramai non è un genio speciale di alto livello di alte persone nella società, proprio un genio del popolo.